Domani sera andrà in scena l'ultimo appuntamento dell'edizione di quest'anno di Femminologica, questa rassegna di teatro civile al femminile, con uno spettacolo intitolato Bologna 1518, il fronte delle donne. Noi siamo al telefono con Simona Sagone per parlarne. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, siamo quasi alla fine di questa rassegna che abbiamo deciso di dedicare con 5 serate alla storia delle donne, perché pensiamo che appunto solo narrando la storia dal punto di vista delle donne si possa poi spezzare quell'incrollabile visione patriarcale, diciamo, della società, briciolandola piano piano quelle certezze che gli uomini hanno di poter controllare la vita delle donne, delle sorelle, delle figlie, come vediamo ancora oggi poi dalle cronache. Tornando alla nostra serata di domani, la serata si aprirà alle 19 con un incontro con Udi Bologna dedicato alla loro esperienza in carcere, che poi oltretutto raccontano in radio, sì. Radio Città Fujiko, con una loro trasmissione. L'ingresso all'incontro sarà gratuito, sempre a prenotazione, e poi subito dopo alle 21 appunto cominceremo il nostro spettacolo di Yukali, il fronte delle donne. Torniamo in scena con questo spettacolo che ho scritto nel 2018 sull'attivismo delle donne e durante il primo conflitto mondiale sul fronte interno, raccontando come appunto le donne sono state per la prima volta introdotte in massa nel meccanismo produttivo, nelle fabbriche, in tutti i settori che prima erano occupati solo da uomini. E nel primo quadro la protagonista è una trandiera, Lea Ballanti, realmente esistita, che è stata immortalata dal Carlino nel 1916 per raccontare in un articolo il terrore degli uomini per le donne al volante. Invece il secondo quadro racconta la figura di Argentina Altobelli, che fu la prima segretaria generale della Federazione Nazionale Lavoratori Terra, quindi anche la prima sindacalista donna in Italia, una socialista che lottava per le tutele delle risaiole, si è battuta tutta la vita per le 8 ore per le lavoratrici della terra, che poi non è riuscita ad ottenere, una battaglia che sarà vinta anni dopo. È stato un personaggio straordinario, era collaboratrice di Turati, partecipava a tutto il movimento internazionale delle donne per la pace e il diritto di voto. Invece nella terza scena si incontrerà Gida Rossi, che era un'insegnante delle Laura Bassi ed era ispettrice generale dell'ufficio per le notizie ai militari di Terre di Mare, che è stato fondato proprio a Bologna nel 14 dalla contessa Lina Bianconcini Cavazza per offrire supporto alle donne e dando notizie dei loro familiari in guerra. La contessa Lina Bianconcini Cavazza comparirà poi nel quinto quadro raccontandola alla fine della guerra nel 19, quindi 8 mesi dopo la fine della guerra, la chiusura poi di questo ufficio notizie, nel giorno in cui con una solenne cerimonia viene chiuso l'ufficio che appunto dava sostegno alle famiglie, aiutandole ad avere delle pensioni di guerra o i sussidi a tutti i familiari, insomma, dei caduti o appunto dei feriti. Quel giorno vennero conferite delle medaglie di benemerenza dal Ministero della Guerra a tutte queste donne che erano tutte volontarie, e in 8.400 uffici sparsi in tutta l'Italia, e la sede centrale era Bologna. La quarta scena, tornando indietro, è dedicata invece alle madrine di guerra, due madrine in particolare, Teresa e Ida Folli, e quindi alle lettere dei soldati. Queste lettere verranno proiettate, almeno alcune di quelle custodite, al Museo del Risorgimento del Fondo Folli, che le sorelle Folli hanno poi donato al Comune di Bologna, e queste madrine di guerra scrivevano ai soldati che non avevano nessuno con cui corrispondere. Ida era un'insegnante alle Laura Bassi, Teresa, la sorella maggiore, era una casalinga, anche lei volontaria all'ufficio notizie, si occupava dell'ufficio telegrammi. Quindi raccontiamo questa grande mobilitazione in tutte le classi sociali, i borghesi, i nobili, le operaie, tutte insieme lavoravano su questo fronte interno per sostenere tutta la mobilitazione e sostenere anche le donne che a casa dovevano dar da mangiare ai figli, trovare un lavoro, istruire i figli. Si incastona tutto nel quadro dell'amministrazione di Zanardi, che dal 1914 al 1919 è stato sindaco sindaco di Bologna. Possiamo dire che pur in un contesto così particolare come quello della prima guerra mondiale sia stata quella una prima occasione per le donne per prendere coscienza e cominciare un percorso verso l'emancipazione? Esattamente, questo è stato nella prima guerra mondiale, in tutto il male che c'era, comunque loro costruivano le munizioni per i soldati al fronte, insomma si sono rese conto di avere anche un potere, e appunto nell'esodo che intorno in scena la ex stranviera, a questo punto era Rene Ballanti, e dice che sono state buttate fuori poi dopo dal mondo del lavoro, però avevano appunto acquisito la coscienza di che il lavoro era un loro diritto, e da lì sono partite tutte le battaglie per l'equiparazione dei salari tra uomini e donne, perché il punto è stato quello, che hanno dovuto restituire il lavoro agli uomini, anche perché loro avevano dei salari più bassi, orari più lunghi, e quindi facevano concorrenza agli uomini, e quindi in qualche modo ostacolavano il progresso del proletariato. E la battaglia di cui parla anche Argentina Altobelli da condurre dopo la guerra sarebbe stata quella, ed è stata quella, di cercare di equiparare i salari in modo che anche le donne potessero lavorare e sostenere le famiglie al pari degli uomini. La lotta è stata lunga, lunghissima, continua fino ad oggi. Non abbiamo detto il luogo dove si svolgerà lo spettacolo. Il luogo è l'anfiteatro di Villa Spada, si entra dall'ingresso del parco su via Saragozza, angolo via di Casaglia, si prosegue su al monumento delle 128 cadute partigiane, che ha anche appunto un anfiteatro molto bello che vogliamo valorizzare con tutto questo percorso che abbiamo intrapreso da tanti anni con tante associazioni di zona per la rivalutazione del parco, che oltretutto questo monumento è anche stato vandalizzato in questi mesi, quindi c'è tanto lavoro da fare anche sull'educazione e il rispetto. In scena con me c'è Mirko Mungari, musicista polistrumentista, e Sara Graci, e poi ci sarà invece un'animazione video fatta da Sonny Menegatti. Lo spettacolo inizia alle 21, si deve prenotare al 333 47 74 139, scrivendo a info@iucali.it. c'è ancora qualche posto, e quindi aspettiamo tutti quelli che vogliono venire.